essendo una radio un pochettino superiore giustamente a quella che sto usando io in questo momento, non è c'è questa difficoltà, diciamo, di modulazione. Non lo so, io personalmente, io non vedo una bella radio questa miseria, fa anche la sua porca figura, però non è possibile c'è una modulazione così boh, io la sento grossolana. Se ti fidi, non c'è qualche opzione per regolare la modulazione, darla un pochettino più chiara in quella tipologia di radio? Io non ne ho di questi problemi, Antonio, te l'ha già detto Gianni. Io ho 30 anni che modulo con i keyboard e nessuno mi ha detto mai niente, anzi sono l'unico che lo fa andare come cristiani. Dipende dalla timbrica, non tutti hanno la mia timbrica, Io sfido a chiunque con tale più 3 ad avere questa modulazione. Questo è un vecchio tale più 3 con un baracchino degli anni 70 a 23 canali. Vedi un po' tu cosa ti devo dire, picche o cuori. E niente, allora arrivato a un certo punto uno deve cercarsi sempre l'apparato abbinato alla sua voce, morale della favola, giusto? Se a un certo punto uno dice sì, mi piace, poi alla fine esci per dire da queste piccole problematiche, allora uno alla fine deve per la sua voce abbinarsi l'apparato, o sbaglio, pur non piacendoti alla fine. No, sbagli, ma Gianni ha una timbrica che con quel tipo di radio può provare qualsiasi microfono, questo sta a lui, vedere un po' se trova la timbrica giusta. Io, a me mi va bene come modula Gianni con quel tipo di radio, evidentemente la gente non apprezza più che dire altro, ecco. La butto così perché sono abituati a sentirlo con l'eco, con questa modulazione, e quindi non apprezzano un altro tipo di timbrica, ma per me esce benissimo, va benissimo, quindi non so cosa dire. Avanti Gianni. E vabbè, ma non c'è problema, non c'è problema, tanto c'è anche questo qua che loro sono abituati a sentirmi con l'eco, io l'ho già detto, lo ripeto, a me vanno bene gli apparati che hanno l'eco, perché? Perché mi aiutano con la modulazione, mi danno la spinta in più la modulazione, la timbrica completa, quindi a me mi ha detto che questo apparecchio per dire va molto bene, per la mia voce. Sì. Io non sento che stai uscendo con attenzione, ma io non sto prendendo in considerazione l'eco, La chiarezza della modulazione, io ti sento chiarissimo qua, capito? Non c'è né troppo grossolano, né troppo chiara, né troppo cupa, io ti sento chiaro, come che sei qua a casa. Ecco cosa intendo con modulazione, poi per me, però, sinceramente non ha nessun interesse. Invece, ripeto, con l'altra sicuramente per quel problema ti dava quella, non lo so, chiarezza, chiara come questa, io non ti ho sentito con l'altro, è tutto lì, io sto parlando di chiarezza di modulazione. Quindi ecco, ripeto, non mi interessa, non è quella la questione dell'eco. Oppure esce anche bene senza eco. Questo secondo me, se tu l'eco lo puoi togliere, non lo so, rimane sempre chiara la tua modulazione. No, non c'entra nulla Antonio quello che stai dicendo, perché l'apparecchio quando esce bene, poi la modulazione può anche non piacerti, però quando esce bene, è che a volte si interrompe, si sono riportate, quindi è da vedere che cosa sia questo problema qua, capito? Tutto lì, non è che non c'è nessun problema, speriamo che sia una fesseria, perché se poi sono da cambiare pezzi, questo e quell'altro, mi costa 4,40 poi alla fine. No, ma se stavi uscendo da prima, come toccato, hai resettato per dire, sarà qualche cazzata, se no avresti visto altri problemi. No, sarà una minima cazzata, non ti preoccupare, ma sarà anche la curiosità, così per vedere un po' come la situazione. Da una parte dispiace, uno cioè, ci mette anima e cuore, e poi si trova così, non è bello, come ci ho passato io, e attenzione, dunque già so cosa sto dicendo, tutto lì. Sì, Roberto. Io mi auguro solo che sia roba da poco e che si risolva così, perché se no pazienza, cosa deve fare? Vuol dire la prossima volta comprerò solo apparecchi nuovi, come mi ero già messo in testa, poi vabbè, questi qui non si trovano, mi piaceva, eccetera, eccetera, dico la verità. Ho trovato l'occasione, ho venuto l'altro, ho preso quello, ma sempre pensando che fosse una cosa che andava bene, non è così. Vabbè, adesso vediamo, magari una cazzata e io lo sai, mi butto giù subito queste cose perché mi danno molto fastidio. Perché io sono molto preciso in queste cose e non mi va che gli altri non lo siano come da me. Guarda, io da poco ho venduto l'Ara 44, il primo che avevo. L'ho portato al tipo che c'ha un fuoristrada, dunque fa fuoristrada questo, dunque serve un apparato. Gliel'ho dato, mi ha fatto, ti dispiace se lo tengo due giorni, lo provo e vedo un po' come va, sì, guarda, non c'è nessunissimo problema, provalo tranquillo, poi se non lo vuoi non c'è nessun problema. Io l'ho provato, riprovato, gli è andato bene, guarda, le condizioni sono queste. E dopo abbiamo fatto il prezzo, un prezzo a due, a due soldi, mi è arrivato a 30 euro, non è che sta lì a prendere chissà che cosa, alla 44. Contento, tranquillo, l'ha provato, poi che gli è piaciuto, mi ha chiamato, sì Antonio mi va bene, vieni a prendere i soldi, bisogna fare così alla fine. Provare, poi vedere se ti va bene, si paga, se no si ritorna a chi te l'ha dato. Conviene fare così, penso che sia anche una cosa più onesta. Sì, Antonio, ma sei scalognato, magari rifletto, non te lo fa subito, te lo fa dopo, perché ieri puoi chiedere a Claudio, 4 ore sono stato modulando e non mi ha fatto nessun difetto, invece nel primo pomeriggio appena acceso ti ha subito mi ha fatto un difetto, capito? Quindi è sempre relativa la cosa. Non so cosa dirti, io quella radio ce l'avevo 8 anni. Capito? Non so cosa sto dicendo. Quello era l'altro. Non so, comunque adesso mi ricordo da quando l'ho presa da Gigi, quanto è 2 anni, 3 anni, non so. Vabbè. Non ho mai fatto un effetto. È uscita da qua e ha cominciato a fare difetti. Anche con preso qualcosa, vabbè. Ognuno sa di sé. Comunque non sono problemi miei, quindi non mi interessa. Vedete voi. Sicuramente Fabrizio adesso lo metterà sotto, troverà il problema, piano piano lo calma, seguendo tutte le piste, perché se come dice lui, ne dubito, però se come dice lui è una saldatura fredda, il discorso è molto semplice, basta seguire le piste e vedere un pochino. Può darsi anche che come dice lui sia una saldatura fredda, non lo so, comunque. O qualche componente che va in perdita quando praticamente la radio scalda. Ci sono mille fattori, e in ogni caso non ti sperare, perché i componenti di quella radio, tolta la scheda VCO, che è da escludere, tolta la scheda PLL, che è da escludere, tolti i finali, che sono da escludere, tutte le altre sono cazzate da 5 euro, tranquillo e sereno. Perché noi con Fabrizio proprio abbiamo cambiato tutti i transistor, tutti i condensatori messi nuovi, perché poi dopo tanti anni vanno messi nuovi, spesa 10 euro, quindi non hai da che preoccuparti, perché le cose che costano sono quelle, perciò quelle non sono. Se dovesse essere un condensatore o qualcosa in perdita quando la radio scalda, è sempre roba da 5 euro già. Quindi si trova? Certo si trovano, sono dei semplici componentini del cacchio, condensatori, resistenze, un diodo, un transistor, perché non si trova? Tutto si trova, quella roba lì si trova tutta, non è che la devi mettere mica in che modo quella roba, sono componenti elettronici di qualsiasi ditta costruttrice. Sono piccole cartapine da revisionare. Sì, se non esce già il problema cambia, ma fortunatamente esce, anzi già arriva anche abbastanza forte qua, arrivava. Dunque sì, alla fine il ragionamento non ha una piega. Sì, sarà qualche cazzatina, ma niente di più. Passo al contatto, prendiamola così, in parole povere. Vai tranquillo già. Oh, c'è tutto aspetto già, io se sono il 27 non devo stare a seguire niente. Ok, pensaci pure, come ti ha detto Fabrizio, che sia una salvatura a freddo. Non è da escludere, ma ne dubito. In ogni caso, se qualche componentino del cacchio, proprio del cacchio, da 3 euro, da 5 euro, che è da cambiare, si cambia e basta. Chiaramente le radio, quelle radio sono così. Tu non hai idea di quanti soldi ho speso io su 4,40, guarda. Ma di là, condensatori, revisione, una volta abbiamo messo la scheda PLL, altre me la sono messa io, capito? Un sacco di là, quindi escludi quelle cose costose come VCO, PLL, finali, tutto il resto è una cazzata, perché sono semplici componenti elettronici che vende Fusaro, che vende la GBC proprio da 2 lire. Riprendi Antonello, allora. Guarda che domenica c'è la sagra del calcio a Fausi, se ti interessa. Fausi, non Ausi, o sbaglio. Ci possiamo organizzare. Poi una curiosità già, c'è una cucina di una signorina, in quale frequenza è? 145-250. Cos'è quella tua? Quello è link. Il link di Sassari, il link praticamente che sono cambiato la frequenza a questa, stanno facendo tutto in digitale adesso. Ah ecco, e devo andare, aspetta, in USB, giusto? Aspetta un secondino, tranquilla mia, 145-250, così mi hai detto già. Però lasciamo stare, poi ogni tanto c'è la signorina che dice le cose. Ma no, è USB. Sì, no, non è in USB. Cosa sto dicendo? In U. Ma lo denuncia, è FM normale, vuol che è. Ah, UHF, perfetto. UHF. Beh, devo schiacciare due volte, ecco qua. Devo mettere direttamente FM, ok. Ma me lo prendi in automatico, capite? Tu come lo metti in automatico ti metti voi. UHF. Siccome qui UHF non c'è scritto, qui ti esce FM, AM, FM, W, USB, USB, C, W, R. Dunque in VHF devo mettere FM. Antonella, le VHF sono 145, quindi 144, da 140 a 146. Ok, quelle sono le VHF. Le VHF sono da 430 a 440. Non c'entra niente. VHF è la frequenza, la banda. La banda VHF e la frequenza è 145-250 FM. Esatto, siccome ho detto VHF, diciamo l'apparato non lo scrive VHF, questo no, quando devi spostarti in frequenza, qui mi esce FM, capito? Quello ti volevo dire. Nessuna radio scrive VHF, sappiamo che le VHF sono da 144 a 146, ok? Le UHF sono da 430 a 440, nessuna radio scrive VHF, UHF, c'è scritto da te, no? Se tu leggi cosa c'è scritto nella radio, cosa c'è scritto? ICOM 706 MK2G, 2 al 20, V e U, così c'è scritto. Esatto, c'è scritto HF, VHF e UHF, esatto. Sì, ma sto dicendo, sicuramente non lo sapevo, metti in FM, dopo se faccio FMW come nell'FM normale per le radio locali e internazionali, poi devo mettere in FM solo in VHF, sì. Ma io ero convinto che lo scriveva VHF, invece no, scrivono e esce direttamente FM, che equivale a VHF. Ehi, Antonio, dai. Già va bene così, comunque non ti preoccupare. FM stretta, FM larga è la W. Avanti Gianni. E la KF ascoltando sempre. Sì. La mattina sui 7.000. 7.115, quella zona lì. E lì l'altra sera fino a una farra a luce, ma che dai, ma che gai, c'era questo qui che dice ma cosa? Questo che ti riduciamo, questo e quell'altro, non sei un radioamatore tu, questo e quell'altro. E stavamo mezzo bisticciando. Mattina questo? No, di sera, di sera. Di sera verso le 7.30. Allora, sempre di mattina, c'è un pochettino più di affluenza, facendo lì verso quell'ora e fanno un po' di compagnia. Ma adesso provo anche la sera a vedere se c'è qualcuno. Sai che io di notte ascolto, dopo che termino qua, molta gente ci riprende, poi non riprende, quindi io guardo, non c'è nessuno, poi devo ascoltare. Faccio un po' l'ascolto, io ne sento, lui ha voglia, c'è uno che parla un po' strano, che ha detto qualche cosa del genere, si chiama, che è praticamente sardo, sicuramente. Come si chiama? Cosa? Com'è che si chiama? Ninetto, caro, adesso non me lo ricordo. Però parla un po' stranamente, sembra che abbia quasi un turicus, roba del genere, ha una pronuncia un po' strana. Ma sai cantarne malissimo, ah? 90 anni c'ha quello. Davvero? E 90 anni c'ha, ce n'è più di uno. Anche quello che senti con la voce rauca, anche quello c'ha 90 anni. Capito? Franco, quello stesso c'ha 90 anni, ce n'è di gente novantenne in HF a 7070, 7080. Infatti ha detto che non aveva più l'età per salire sul tetto, ha detto questa frase qua, ma pensavo una sessantina, 65, non ho più l'età, anche se ho qualcuno che mi può dare una mano, ma non ho più l'età io. Guarda, lì ce ne sono parecchi. Io li conosco con modulazione, chiaramente di persona non conosco nessuno, però sono tutti molto molto molto grandi, tranquillo, capito? Sono molto grandi. Fai da bravo Vannino, ti schiaccio le orecchie. Capito? Avanti Antonello. La passione non è tra. Niente, vi devo salutare che è pronto, ci sentiamo dopo, là se ci siete, sempre sul 12. Ehi, alto, ciao, buona cena, là. Ho una carica, io già mi sono mangiato una mozzarella, due arancia e fatelo io. Che ora è? Non ho ancora visto l'orario. Cazzo, già vuol dire a me che mi prendo il tuo. Questa è la mozzarella con l'arancio. Ui. Già, da te, è un vagruso. Basta non scioperare, stai sempre scioperando, stai mangiando tutti i soldi. Grazie a te che ti ha messo da mangiare. Ma che tu già la gente. Oh, sto cercando qualcosa, buonasera, come ti acquisti? Caro Flavio, come ti funzionavi? Funziona così, sì. Ho visto il tuo segnale, il rientro, ho detto Peter Vannino, KK. Ma l'hai salutato poi ieri quello che è entrato a salutarti il secondo PL, perché non lo saluti, cazzo? Ma non ho capito chi è lì, non ho sbagliato, non so. Cosa mi capire chi è? E tu no, vabbè, c'è la prossima, comunque è un casino, è una classifica, io a me ne frega caccia, non è che mi saluta, perché a fare giù io rispetto, sono vero, se tu non lo è, non è che cosa puoi fare giù, io capisco la situazione, ma non è che fa un danno a me, non so fa lui stesso. Allora lui che mi ha fatto un po' di danno con questo vento, mi ha buttato, facciato la picca favoletta da 5 balle, che è il testo di ho fatto, pensavo che avessi fatto un bel lavoro, se lo immagini, se ti faccio valere un rugo, cosa ho fatto e cosa mi ha distrutto non si finisce, non si finisce, cosa mi ha distrutto, il testo storia, una cosa mi si era fatto un tubo, si era una benzina e l'ha staccata. Io mi sono punto, mi sono pensato perché, l'antenna invece, guarda, una cosa impressionante, ero solo un motivativo. Ecco, non so se ha strappato qualche cavo, se brutto, se è rotto, ma non credo però. Comunque a posto, anche se ho dato due, tre, quattro pomeriggio, però anche se mi ha fatto tanto, non l'ho ascoltato. Ma come nella giù piazzata io ancora la verticale, la piazza d'estate, se non l'avrei trovata la cinaga. No, sono un bel lunghe, è un casino, poi sono molto molto delicate perché hanno tutti gli stoppini dell'accordo, è un manicomio. Me lo immagino, tu immagina che io sono salito dopo pranzo su a vedere verticale voi, senza radiali, cioè senza diranti, ma con il muove che è un tubo da 3 pollici, tutte le antenne verticali a posto, la direttiva delle VHF a posto, le direttive, le IAGI tutte e due, quella per i 10 e l'altra che sono praticamente a un metro e mezzo dal piano del tetto perché le devono tirare su, mettere rotture eccetera, erano a nord e le ho trovate girate verso Cagliari. Roserei dai da Rovento, per carità, vabbè. È così, quando c'hai troppe antenne o queste antenne così devi stare sempre con gli occhi aperti. Va bene. Avanti Gianni per i saluti a Marino. Ciao Vanni, anche io sento questo vento fischiare stanotte, era un po' su chi va là, fischiava appunto come si dice. Una cosa allucinante, tant'è vero che la sera, vabbè, è venuto quello della mansarda a chiedermi una mano che si era strappata dal muro, proprio il tassello dell'antenna parabolica, che invece di faceva la vela, no? Come andava contro un vento, le lattine tutto stracciata dal muro, c'era penzoloni, dice che ha chiamato i vigili del fuoco e non ci sono andati. E allora sono salito sul tetto, io da sopra gliel'ho fatta mollare da giù e da sopra l'ho tirata su e l'abbiamo abbassata. Ma era un vento pauroso e anche a salire sul tetto c'era un bel vento. Sto parlando di un'antenna parabolica, senza tutto quello che parlavo io un po'. Però la localistica 20:40, non mi ricordo quanto è barato, è stato lì, immagino sul servizio, le cose, ora la conferma, non c'è niente neanche. L'unica cosa che ho detto, mi ha visto questa città, mi ha buttato un vaso che trovo al centro di Tarassino, in terra, no? Un vaso in terra, della copiata trasbella, che si è stata conosciuta, tutta una fame piccolina, non so cosa c'è qua. Poi l'ha fatta volare giù, ne avrai un po' di la macchina, nel senso, io non qua, qua c'è tutto fumo, mi ha fatto questo pezzo di... Ma pensavo fosse l'antenna, non so più di più, mi sono fatto una cosa, come vorrei che magari mi sarebbe stata, cosa del genere. Ecco, sono stato, non mi sono detto, le tante antenne, non faccio la cosa da te, e poi non so se è andato per te, però mi ha fatto una, ma non so più chi ha fatto una, veramente forte, ma forte, comunque, la ricorrenza che ha fatto bene. È sempre un problema, Vanni, è sempre un problema. Però che abbiamo troppe antenne, soprattutto di queste che usiamo noi, è un casino. Dobbiamo stare sempre attenti, allerta. Non ho sentito Marco, si trovate poco fa sull'R7 Alfa, però non l'ho sentito lamentarsi, vuol dire che non gli ha creato problemi il vento. Ma Marco ieri era un bel preoccupato, perché le direttive si muovevano parecchio. Vabbè, comunque bisogna stare attenti. Va bene signori, io vado a mangiare, ci sentiamo dopo, se coincide c'è anche la partita. e quindi sicuramente mi guarderò la partita. Beh, ciao Vannino, ciao Gianni, chiunque fosse in ascolto qua sul canale 12. Guerra Tango per me, a dopo, ciao ciao. Ciao ciao cra, ciao cra, ma buon proseguimento. Avanti Vanni, avanti. Ma l'ha fatto un giorno masticando più di come sia, se dopo che ti bucca la mandibola ti diano pure un brivido. Guarda, ti avevo detto l'altra sera, è una cosa impressionante, non senti niente, tutto sul letto, sul vele, c'è solo tu sul vele, no? Quando lo tocco sul vele è una cosa morta. Ma i denti durano tutto, durano tutta la vita, non ti dà fastidio, non ti dà più niente, non hai più problemi di nulla con gli impianti, capito? Sotto il germano, i pianti e stati, per dire che non sono neanche la possibilità, come quando li lavo, quindi ti siamo di molto forte, non sono niente, quindi sono fastidio, i maschi che mi sono, sono morti, grossi, tanti, fastidio. Il problema che devi avere, la mandibola forte, bella, piena, avere una fattura buona, capito? Per fare questo tipo di lavoro. Ma non ce n'è, sai, se non ce n'è, non ce n'è. Faccio quello che mi dici di più. Poi ti ho detto tu, ma tu sai qualche cosa, rosici, le cose come te hai una tuta in mano, scusate, hai capito l'effetto che è? Sì. Vabbè, ma chi ha la piorrea per dire si consuma anche l'osso. Se tu ce ne accorgi in tempo, anche se rispetto alla ricetta di cui l'ossatura ricresce, capito? Cioè, se ha una buona ossatura, si può fare l'impianto, non si preoccupare, e se ne è molto di lui, il problema è sempre più. Ecco, adesso, se uno ha problemi, l'unica cosa sarebbe andare lì in Croazia, e in una settimana, anche è logico di un giorno, ma in una settimana fai tutto, tre giorni, dici a lui, tu vai e vai direttamente, sei servito di tutto, sei accudito di tutto, quindi non hai il problema di cercare niente, tu fai la telefonata, loro ti dicono cosa devi fare, dove devi arrivare, arrivano lì, ti prendono, ti mostrano pure nella clinica, la clinica è già predisposta per diciamo, le stanze, tutti per i pazienti, e sono organizzatissimi, e sono anche moltissimi, certo, insomma, a Puglia queste sono interessanti. Beh, sì, saranno un insieme di dentisti che si sono organizzati e lì si inventano le cose, si inventano queste cliniche ti danno vita a luglio, poi c'è due giorni te lo fanno davvero. La zia di questa amica mia, di questa commessa, è andata, gli hanno fatto tutta la zia completamente in due giorni. Poi è ritornato un'altra volta per il controllo, boh, non è più tornato, e dice che è Renato. Tanto di che, ma chi c'è Renato? Ma cosa vuol dire masticare bene? Guarda che è molto importante la masticazione, noi c'è gente che non riesce niente, tu la dici bucciuti, non è tutta meglio, c'è masticazione, è molto importante, è vitale perché ti consente anche di vivere bene e di vivere meglio, sicuramente, un sacco di problemi in mezzo. Lo dico perché ho finito anche tante di queste risorse di alimentazione, molto importante comunque non si fa il tempo. Però, a me, perché qui ho finito tutti i denti e non è un problema di quando è, io purtroppo come tutti, guarda come lo ricordo qua, ma rispetto. Ma il problema di tutti hanno fatto la stessa cosa. A casa noi un dentista l'abbiamo conosciuto da tanti anni. No, ma poi se un dentista di fiducia fai bene, ogni tanto bisogna anche controllarsi e fare. Io prima facevo la pulizia ogni 6 mesi, adesso un po' me ne sono butte, dico la verità, però prima ogni 6 mesi andavo parallelamente e facevo fare la pulizia dei denti, completamente. Sì, anche quello è importante, infatti i miei 3 anni ormai sono andato a fare la pulizia, no, io ho denti di fiducia, non ne ho. Io adesso c'è questo, ci stiamo cercando da questo, ma comunque a me non mi crea problemi. Io ho conosciuto un amico che faceva la loro sbriata. Era uno studio di assassa di tutto allora, ogni giorno capita che magari ci serve da uno, fai uno e via, adesso è capitato questo e mi sono a questo, tanto quando vai fai la tutti, tutti sono bravi, poi sono bravi con i suoi vestiti. Vado, dai, andiamo a mangiare che pericoloso perché come ho mollato non ce n'era. Allora ciao, già sentiamo. Ciao. Ogni rumore, boh. veramente io so, sono anche quelli che hanno un po' preso, perché ero stanco. E non sembrava più di tanto, diciamo, questo è l'obiettivo, è stato quello che non è potuto arrivare. E si è accorto sicuramente ha fatto più tardi. Sì, sicuramente lo scirocco lì è passato, perché di scirocco si trattava, ha fatto le macchie del garage. Chiarifica un po', nel primo siamo un po' confermi poi la mano sulla che si agisce. Non va bene. Non devo ascoltare qualcun altro e provargliela. Appena come fai? Sta bene, si può di nulla. Ma mi sei niente, Giovanni, occupissima. Come Luca? Troppo occupa. Sì, d'accordo, ma almeno si è giocata. Mi sento che c'è come radio. Sì, ma è occupa, è amplificata. Vedi, con il telecomando. Questo è un seguito di due, Giovanni. Perché è un corner. Però l'hanno modificato questi qua, no? L'ho preso in mano, però ho visto che sul tutto è molto diverso dal tutto. Sul tutto hanno abbinato anche un pelo, perché sto manovrando, però mi sta pensando, però non sento nessuna variazione di migrazione. Mi sa cosa farlo, vero? E niente. Trovato una casa, cioè, prima non riusciva nulla, che mi scala, mi sono avverso di come attaccavo, trovare tutte le cose, invece adesso almeno sono riuscito a farlo funzionare, anche se non è una buona modulazione, però prima mi scala, sicuramente della massa, e dopo ho provato e ho sistemato, diciamo così. Ma veramente di che, tutto il microfono di sé. Che non mi fa niente. Tu, ma sei incomprensibile. Ma non dico niente, anche perché sta. Non mi dava che sono di buffere, non faccio io. Vabbè, la mia terra prima non funzionava, non ho alla funziona. Dopo pian pianino, con qualche cosa di più prima, magari trovare una casa sulla testa di più, chi lo sa. Il telefono a via Ianna e fa fotocopio e la guardi salgono su, fanno due aule a testa, poi finito. Ma stiamo scherzando, nel caso facevi un guru, a che cosa vi servi fare? Io non capisco veramente. Già sei dormito. Non mi sono dormito, ma poco mi manca. questa qua, Luca. Eh? Sì, sapete dove cazzo di Sassarelli, io credo dobbiamo continuare. C'è stato la presenza di voi. Siamo un fondo. Come il volume? Ah, va bene. Piano piano si ne andendi quella lì. le cantine, diciamo. E chi chiedi dopo un grande e piangeva lui, forse perché si ricorda proprio il funerale della madre. Con la vecchio, molto vecchio, però come ti dicevo noi, no? La linea vecchia ma compro. Io pensate che i lavori facessero lavoro, ma adesso non funziona il coso, lo spinotto femmina. Franco. Io. Detto adesso lo spinotto femmina non funziona. No. Sì, se ne sei di momento magari potrebbe anche funzionare, però è tutto quanto. Si è messo male. Io che quando non riuscivo a contare magari l'ho portato io dall'esterno, capito? E l'ho danneggiato io. Beh, basta cambiarlo, fusarlo, sai quanti ne vengo. Bisogna andare a fusarlo. Faccio un occhio. Se ci dia allora basta. Non avevo nulla da ciambarlo, ma c'è la bollare su coso tondo. Lo cambi, gli fai due salvatori e fatto io. No, se tu più vabbè, Luca, Gianluca, Gianluca. No, io l'ho sentito anche con l'altro, è un abisso. Tutto meglio questo. Lui ha saputo. Cosa avevi, Luca? Cosa avevi? E lui è di tu. E adesso mi sono svegliato perché Gianluca mi ha cantato la serenata. C'è una terrestre. Ma no, vabbè, tu suoni la chitarra, Gianluca. Ho detto, suoni la chitarra anche. No, un campanello, ragazzi, poi c'ha... Però adesso, mi dai ginocchi. No, buono, ma so che adesso da un mese che non... un bel po'. Ma ci si serve, ma poca gana e poca pazienza. Poca pazienza, pure già si perde il piacere, ma per essere che ancora non ho tagliato la grafia di voglio imparare. Oh. parlo. Allora, avvicinati più al microfono, che quel microfono pompa. Fatti sentire cantare. Aspetta, è così, guarda un po'. Ma ti dà così già, ha uno il microfono, va. Adesso è meno di uno, si sente, boh. La voce si deve sentire, se di più. La chitarra il suono lo fa. pezzo di merda, scusate il termine. Con la navetta li ho, perché erano tutti spaccati, li ho tutti puliti bene, mi sono guarito di nuovo, adesso devo rifare i calli. Ma personale, beh, la pedina non ho più riserva. No, per i tasti dico, perché c'è delle corde. Ah, vabbè, piano piano se la sveglia ti si riforma. Io avevo due amici che erano molto bravi, si sentivi come facevano il rock and roll. Uia. Uno faceva il solista e l'altro l'accompagnamento. Cazzo, devi sentire come suonava. Era molto bravo, avevano imparato da soli, tutte le canzoni sapevano suonare. Quando facevamo le arrostite, sempre c'erano, no? Sempre in prima fila, ragazzi tutti cantanti. Lui facevano uno spettacolo. Si sta di ragione di me. Ah no, io via. Ma noi ci muovevamo più dalla campagna, restavamo tutte sera lì domani mattina, ma facevamo tutta la notte chiacchierando, ridendo, ballando, venti, cantendo. Però non ci muovevamo perché sapevamo che avevamo bevuto e quindi da lì non ci muovevamo. Poi di domani, quando era smaltito, se ne andava. Ah no. Certo, la campagna era grande e poi c'erano i soliti imboscamenti, di coppiette, di cose, si formavano lì. Certo, però sono anche da me che del gruppo, solita soprattutto, ma... alla nostra vita, è come all'età, anche così, anche gli impegni, le famiglie, per prima che sia della diocesi, anche una amica, invece adesso magari si fanno con le famiglie per vengano, perché nonostante tutto c'è sempre qualcosa da fare. Ed è bello lo stesso, capito? Male, magari come devo dire, da uno, da un gruppo, non fa niente nulla, non so, gli basta dalle stelle alle spalle. Beh, certo, tante volte dipende, tante volte dipende anche, diciamo, da quello che ti riserva la vita, perché per dire molte di quelle coppie che noi frequentavamo si sono separate, quindi non per volontà loro, ma purtroppo gli avvenimenti della vita sono quelli e purtroppo è andata così. Allora, ma sul fatto bisogna prendere decisioni già, in certe situazioni, parlo globalmente, dopo ci sono delle cose che non può fare a meno, non può fare a meno, è costretto, bisogna avere delle osservazioni, delle cose, da voi le diffusioni, cosa pensano la famiglia, a metà del trigo, di cui uno di tutti di lui non può, non può non si vengono, quindi. Certo, e molte volte le puntine, le cose, tante volte rovinano tutto. E vabbè, e quando sono coppie che ci sono tanti anni insieme, invece di imparare a conoscersi di più, vanno a finire che magari poi si stufano, le donne specialmente. Diciamo che non ci si sopporta più già, così perché io credo poco magari che due persone ci sono anche per carità, delle persone che mi sono innamorati come se primari dopo tanti anni, ma la maggior parte dei casi si va avanti per abitudine, così, perché c'è affetto, perché vuoi bene alla persona, senza una di dubbi, ma finché è un'abitudine che si fa andare avanti. Tu dici che dopo un certo periodo l'amore sparisce così? No, non è che sparisce l'amore già, ma sparisce. Però magari succede che le cose un pochettino, non che si raffreddano, ripeto, cambiano tante cose, impegni, il lavoro, si può trattare magari lontani, si vede anche poco, comunque sia. La famiglia c'è sempre, per dire, capito? Vabbè, comunque, sono questi casi appunto che ti dividono dalle amicizie, perché poi, capito, queste coppie che si separano di amici, non ti frequentano manco più te perché magari pensano che tu vai a riferire all'altro, quello che fa, capito, sai come sono queste cose. Vabbè già, lì bisogna essere tristi, perché tra moglie e marito non mette più in così bene, uno non deve fare parte una parte all'altra, deve prendere la situazione per quello che è, e giustamente sia non allontanare uno e avvicinare il corpo all'altro, capito? Buona sera. Buonasera, buona anche a lì. Ciao Gianluca, buonasera Gianni, dai, mi stavo un attimino ascoltando, mentre che svolgiamo qualcosa, dai, riprendi già. Ciao Sandro, mi senti sempre studiando stai tu, o stavi sfogliando le banconote? Banconote, guarda, non c'è bisogno di elettronica, almeno tu già sei nel settore, te ne accorgi, per carità, guarda, no, mi stavo mettendo a posto qualche scheda, così, che ogni tanto qualche scheda impazzisce, e quindi stavo, di nuovo, togliendo via i componenti, capito, e sostituendo. Per cercare di risparmiare qualcosa, perché se no se al giorno d'oggi ordino una scheda sono dolori, allora devi fare un po' te. Va bene. tribura. C'è Luca e Gianluca, dai, avanti. Luca, chi Luca? Luca, Luca Sierra Sierra? K, Luca di Montezemolo. Ehi, K, Luca di Montezemolo, ci sei? Bisogna sorridere un po' la vita. Lo so, lo lo so, però insomma, ottimisti sì, pienamente d'accordo, perché se ci manca l'ottimismo, diciamo, siamo persi. Tu figurati un po' che io oggi ho controllato delle macchine e addirittura ho trovato dentro, diciamo, un posto della moneta da 1 euro, ho trovato le classiche, cioè, vi ricordate, le classiche 10 lire, le classiche 10 lire, beh, è successo che con le 10 lire la gettoniera, diciamo, ha funzionato, capito? E ho voluto cambiare gettoniera, però vedi, cioè, le studiano, le provano. E invece a lui ci hanno rifilato anche 1 euro falso, lo sai? Aspetta, 1 euro falso, aspetta, ma non è che sia quell'euro spagnolo? Ma più di un sasso, lo va? Eia, ok. Gianluca, prego. Sì, avevo visto dell'euro, c'era una busta anche di 2 euro, e avevamo trovato, erano leggermente più grosse, più spesse, mi sa. Ma un po' sbiadite l'euro falso, sono un po' sbiadite, non c'hanno i colori che c'ha l'euro. L'interno è diverso. Di tutti i colori ce n'è di tutti i colori, quindi ecco, bisogna stare sempre all'avanguardia, c'è poco da fare. Abbiamo lasciato per i carrelli, per prendere i carrelli cosa ci servono? Quello euro finto. L'abbiamo tenuto per prendere i carrelli e funziona, ma la sorta. Tu pensi a tutte le macchinette, nella roba che ci sono e cose, ci metti l'euro finto, tra, funziona, è la stessa, è perfetto come di misura come l'altro. Ma io, Alessandro, una di quelle macchinette, così, giusto per capire, no? Ma anche una lettura digitale. Lettura digitale, cosa intendi? Che riconosci la moneta. Beh, certo, e se no è finito lo scopo, scusami, se no posso mettere qualsiasi moneta. No, vabbè. Una faccia di moneta, sa, perché devi rispettare il diametro, il peso, lo spessore, la misura, tutte cose qua. Mi chiede già perché tu da Lucarello sicuramente non va una lettura come ti può essere il corso della macchinetta, capito? Beh, certo, Lucarello va bene anche una rondella, per dire. C'è una rondella. Sistema, diciamo, il coso, le macchine logicamente, le gettoniere hanno un rilevamento, diciamo, hanno la memoria dove rilevano effettivamente, diciamo, riconoscono per dire quella moneta. Se tu dovessi mettere e fare un'altra moneta artigianale, uguale, precisa e quant'altro, non la riconosce, capito? Perché non ha i valori, perché non ha cioè, tutti i componenti che dovrebbe avere, quindi rifiutta. Sì, ma fatta meglio, sono fatto l'inganno, perché nei biliardi non te lo ricordi più, già lui cosa facevamo? Ho detto nei miliardi di prima cosa si faceva, oltre un ricordo più si metteva le 50 lire, si tirava l'affare e poi si metteva un pezzo di ferro per tenerlo in tiro, quando scendevano le biglie si riscendevano giù. E una volta ci aveva sgamato quello di Coso, quello che c'era, che aveva la sala dei biliardi, Natalino si chiamava. Lui che ha brigato la sassa, se aveva le gamate, eravamo ragazzini, no? Tutti lo guardiamo già, tutti lo guardiamo, di nuovo Catazzino Torino, giù con Duritano, ma il biliardo lo stesso, quando sono uscito, ho cominciato a uscire quei biliardi a gettone, no? Che non ha anche una misura più piccola dalle misure standard, diciamo, quelle regolamentari del biliardo, quello professionistico, non voglio dire. Anche lì avevano studiato il sistema. Alcuni hanno un bambino, gli hanno lasciato in arrotolato i miei mucchi. Sì, va bene. adesso quel sistema più non esiste più, mi giallo. Ah, io qualche biliardo ancora lo sto muovendo, già ce ne sono ancora. Tu cosa ti vuoi dire, dei biliardi o delle macchinette? No, i biliardi, i biliardi. No, il classico biliardino, capito? Adesso il meccanismo all'interno è totalmente diverso. Non so, capito? Adesso il meccanismo è totalmente diverso, adesso quando metti la moneta che tiri la leva, in modo diciamo che la leva aziona lo sportello per farti scendere le palline, adesso cosa succede? Dentro c'è un separatore, una vaschetta che accumula le palline, quando tu tiri la vaschetta diciamo c'è questa specie diciamo di sponda, chiamiamola sponda, questa vasca che si apre. Quindi anche se tu tieni tirato e lo tieni tirato la leva per tirare, automaticamente lo sportello lo prende e si chiude. Nei vecchi biliardini questa sponda rimaneva aperta, rimanendo aperta le palline discendevano in continuazione, capito? Invece adesso no. Quei ragazzi sono andati a ritirarsi i soldi la mattina, E quel mio amico gli ha detto, guarda che quei soldi non sono i tuoi, perché io qua c'ho l'orario, lo registro tutto quanto, quei soldi non li ha messi tu, ma li ha messi un altro proprietario. E tu quei soldi lì me li devi dare, ma tu stai scherzando, io ti chiamo la finanza, questo e quell'altro. Beh, lo sai che hanno avuto il coraggio di chiamare la finanza, hanno preso questi 50 euro, io sono andato e ho fatto la denuncia, le ho viste dopo un mese queste 50 euro, però me li sono rientrati in tasca. Adesso diciamo tutti i rifornitori, la maggior parte hanno il circuito diciamo di sorveglianza, diciamo circuito chiuso, quindi diciamo volendo se tu per dire sia andato alle 9 e ha avuto l'inghippo, non lo guardano, corrispondono all'orario, tu devi lì, capito? Adesso per dire con questi sistemi di videosorveglianza è già diciamo uno magari si azzardano un po' di meno, insomma questi ragazzini masticavano già da parecchio tempo, non li fatti dubbi di niente, andavano la mattina e si ritrovavano i soldi, capito? Ah, già poco bello. Diciamo al cliente che lavori lavori non è stato, lavori diciamo con la fede, non puoi fregartene, non puoi sbattertene le scatole e dirgli ma arrangia ti fece un perdere questo e quest'altro, capito? Perché sennò poi manca la fiducia, manca tutto. Vediamo se c'è ancora Luca, magari che c'era anche Luca, non so se è se si è cercato, se si è cercato, prova a rilanciare la fine, va di Luca. Niente, neanche Luca c'è. Vabbè, lo so, purtroppo, ecco perché poi diciamo, poverino qua, poverino là, poverino là, un par di palle, perché se non ci sono radici c'è poco da fare, c'è poco da fare. È con un albero che tu se lo vedi crescere, se lo vuoi curare l'albero lo curi, se poi l'albero ne esce storto, ne esce questo, ne esce quell'altro, cioè non puoi dare la colpa all'albero per dire. Ma ecco perché siamo arrivati a livelli dove siamo arrivati, perché ormai non è tutto trasformato, capito? La gioventù ormai è tutta cambiata, ma fammi sempre dal principio delle radici, capito? Radici, capito? E hanno tolto tantissime cose, come oggi c'è tutto e di più, non esiste il classico discorso. Io mi ricordo in primi tempi, quando ho cominciato gli elementari, non c'era l'esigenza delle scarpe di marca o il pantalone di marca, come ci trovavamo a scuola, capito? Senza pretese. Allora pretese non ce n'era, c'era il rispetto, perché c'era il rispetto. Se a mezzogiorno a casa si mangiava a mezzogiorno. E quello che c'era si mangiava, non c'erano lamentele. Oggi è cambiato, quindi è inutile. Certo, ma comunque magari ieri non era tutto quello che c'è oggi c'è tutto, e per dirtela bene non c'è niente, perché quando tu hai tutto non hai niente, perché non capisci sacrifici, non capisci tutte queste cose qua. Già c'era una cosa chiamata all'epoca, già c'era, ma come ti si vera? Non come prova, ma gli avverano, le cose belle, le cose buone, gli avverano. Giustamente, il discorso è purtroppo che non c'è più quell'educazione che si dà prima. Qui, ha trovato tu, a tavola, a quell'ora lì, capisci? Faccio avanti, io ti puoi vedere come cattivo, ma già mangi le cose buone, no? Devo dire che non ti piace il tuo tradimento, perché questo scritto che tu dici è niente che muore nelle fame. Guarda ce n'è, però sai cos'è, è troppo benessere. Noi siamo arrivati a un punto che non ci basta mai, capito? C'era tutto, c'è molta gente che al giorno d'oggi si sogna di andarsi a mangiare una pizza, capito? Ce n'è, però non bisogna, se non abbiamo la fettina e la posto la fettina abbiamo del brodo, abbiamo un minestrone o abbiamo un uovo, non bisogna dire che mi fa schifo, perché preferisco la bistecca o la fettina. E purtroppo, cioè, non bisogna arrivare ai limiti della disperazione o ai limiti, diciamo, proprio di dire dove sono arrivato, guarda dove sono arrivato. Bisogna prevederle le cose, bisogna prevederle, andare con i piedi di piombo e ragionarci, capito? Non ragionare dopo diciamo la fase compiuta, allora è troppo tardi, però logicamente ognuno reagisce come meglio crede, e ora si possiamo fare. Vediamo un po' Gianni. Sandro, ok, buonasera, grandissimo, carissimo. carissimo. Saluti Luca. Oh, ragazzi. No, niente, stavo ero in ottanta, prima di spegnere ho detto aspetta, faccio il giro, vediamo se troviamo qualcuno prima di andare a nanna, così almeno saluto, ed eccoli qua, vi ho trovato al 12. Ok, dai, almeno un giro ogni tanto, il 27 riesco a farlo anch'io. E poi è strano perché ho trovato gente in radio, pensavo fossero tutti a guardarsi la partita. Luca, riprendi. Lui ha trovato, non dico che era solo, non sono sportivo, nel senso che non ne seguo con grande entusiasmo, ecco. Si parla di calcio, beh, è piacere quando ci sono delle cose importanti che si parla di nazionale, allora magari un pochettino me lo guardo quando capita, anche in compagnia, ecco, perché si parla di una partecipazione. Niente di che, però no, ma la partita mi stavo seguendo così, seguendo. La televisione c'è da fare compagnia, ma la compagnia è la radio, più che lo fa, cambiando quattro chiacchiere. Tutto lì è fa piacere quando, cioè, quando viene il 27, e dopo c'è la traccia, problema. Anzi, più siamo meglio è. Sì, capa, sì. No, io sinceramente poi non è che faccia un... non ne faccio un grande uso della radio, Sandro già lo sa. Capita, riesco ad accenderla 5 minuti, allora in quei 5 minuti cerco di fare due chiacchiere. Chi becco e buonanotte al secchio. Per il resto non sono uno che ci rimane da molte ore. No, poi questo è un periodaccio, tanto è vero che stasera ad esempio, per farvi proprio l'esempio, ero in ufficio sino alle, che erano le 8 meno 10, una cosa del genere, e ho sentito a Massimiliano ad Archimede nell'Ecolink di Sassari, io stavo usando il computer in ufficio. E quindi come unico strumento per mi tenere compagnia da qualcuno mentre stavo lavorando, e questa è una cosa simpatica. Se non è stato gli unici passaggi che ho fatto tutta la giornata alla radio. Poi quando sono tornato ho cenato, vediamo un pochettino, perché non stavo sentendo QRM, vediamo un pochettino se c'è propagazione, c'è una eccezionale propagazione nelle bande giù in basso e ne ho approfittato. E poi eccomi qua. Sandro. Cappa, sì, vabbè, dai, ogni tanto già ci vuole, diciamo, a fare una sfantonata anche sulla 27, dai. Diciamo che la 27 è la madre. Diciamo di tutte le frequenze, almeno, capito, anche se ormai un po' tutte le frequenze sta diventando un ciabotto, e vabbè, comunque tiriamo avanti, dai, più che altro per noi, diciamo, oltre la piccola passione, diciamo, un piccolo diversivo, diciamo, per scambiare quattro chiacchiere, magari dalla giornata lavorativa, metterci nel nostro angolino, quella mezz'oretta, quell'oretta, diciamo, giusto per rilassarci un attimino, e come si dice, come smaltire un attimino. Va bene, dai, signori, io ne approfitto perché c'ho il mio Ferrere che mi sta guardando, ce l'ho qui, mi sta guardando, come dire, sarebbe ora. Dai, ne approfitto per fare una passeggiatina. Ciao, sono Antone, buon proseguo di serata, ce la risentiamo tutte le prossime. Ciao Gianlu, anche a te con tutto, avanti. Buonanotte, non so cosa fare, se ci sentiamo, non c'è problema. io invece delle quattro zampe prendo le mie due gambe e me ne vado a letto. E ne approfitto e saluto anch'io. Dai, due secondi sono riuscito a spenderli ben volentieri per salutarvi. E, che dire, ci risentiamo a presto, dai, a tutti quanti. Ciao Sandro, buona passeggiata. Ciao Gianluca, a risentirci presto e salutone a tutti quanti gli altri amici che ci stanno ascoltando, se ci stanno ascoltando. Salutoni, ne approfitto anch'io, scusatemi, ma sono anche molto stanco. Grazie altrettanto a tutti quanti e buon tutto per domani. Per il T da Salvatore. Ciao Salvatore, ciao. Sento una modulazione bassa, bassa, lontana, lontana, lontana. È possibile, è possibile. Buon proseguimento allora Gianlu, buon divertimento, ciao, io sto chiudendo. Yeah. già fare l'incubo.